Questo è un mondo sario, diciamo. però anche là, voglio dire, in cittadella, Dondi, quello che ha cominciato a lavorare là, in cittadella, poi è venuto qua, a dire alle artigiane, e poi è diventato quello che è diventato. Mani, quello che è lì, di fianco a casa nostra, ha iniziato a lavorare in cittadella, poi si è trasferito qui, e anche altri.